Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Attenti a quei due, parliamo di reni. Glaucoma, la diagnosi precoce fa la differenza. Dimmi come si fa l'amore. I ragazzi interrogano internet. Oggi è la giornata mondiale del rene e noi non potevamo perdere l'occasione per parlare di questa coppia che, pur avendo un ruolo determinante per la nostra salute e pur essendo disposta a fare qualunque sacrificio per fare il suo lavoro nel migliore dei modi, gode di poca considerazione. Diciamoci la verità, noi siamo attenti al nostro cuore, lo sentiamo battere, se sussulta ci attiviamo. Ci preoccupiamo del nostro stomaco, se digeriamo male cerchiamo di correre ai ripari provando a mangiare un po' meglio. Siamo premurosi con le nostre articolazioni, ma i reni, chi li sente? Dove sono? Cosa fanno? Chi se li fila, insomma? Io vi invito a farvi queste domande perché oggi troverete risposte, anzi iniziate a chiamare il nostro numero verde 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Vi invito anche ad approfittare delle iniziative organizzate dalla Fondazione Italiana del Rene, dalla Società Italiana di Nefrologia, in alcune piazze a disposizione camper in cui effettuare la misurazione della pressione, vi diremo perché, e l'analisi delle urine, e molti centri di nefrologia apriranno le porte a coloro che vorranno ricevere informazioni, delucidazioni, insomma, per imparare a prendersi cura della salute dei reni e soprattutto evidenziare situazioni di rischio. C'è un sito, che è il sito della Società Italiana di Nefrologia, dove potete reperire tutte le informazioni, www.sin.it. Io mi rendo conto che per chi non ha a disposizione un computer l'indicazione valga poco, speriamo in un prossimo futuro in un numero verde. Intanto noi oggi cerchiamo di darvi tutte le informazioni possibili. Parlando di reni, non poteva mancare in studio il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, che ci farà da guida, e quindi vi invito ad approfittare dell'occasione. Intanto, professor Remuzzi, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie. Professore, oggi che è la giornata mondiale del rene, penso che sia una buona occasione per dirci e raccontarci una giornata tipo dei nostri reni. Cosa fanno? Ma se noi chiediamo alla gente che cosa fanno i reni, la risposta potrebbe essere fanno l'urina, producono l'urina. In realtà c'è un altro modo di guardare i reni. I reni ci danno la libertà di eccedere. Noi possiamo bere tutto quello che vogliamo, oppure essere nel deserto e starci per una settimana e avere accesso a pochissima acqua, e pesiamo sempre lo stesso peso. Perché? Perché il rene conserva l'acqua se manca ed elimina l'acqua se è in eccesso. E questa è una cosa fondamentale per il benessere di tutti gli altri organi. Ma il rene ci dà la libertà di eccedere perché anche con l'alimentazione noi possiamo introdurre tutto quello che vogliamo e il rene elimina quello che non serve e mantiene quello che serve. Per esempio, sostanze come il sodio o il potassio nel nostro sangue devono avere un livello assolutamente preciso. La possibilità di muoversi del sodio e del potassio in alto o in basso nel sangue, soprattutto del potassio, è molto poca. Se il potassio diminuisce o aumenta oltre certi limiti, si ferma il cuore. Chi assicura minuto per minuto, ora per ora, giorno per giorno, tutti i giorni del mese, tutti i mesi dell'anno, questo tipo di funzione al nostro organismo? I reni. Noi non sappiamo che ci sono, ma fanno questo lavoro meraviglioso di mantenere costante il volume del liquido che bagna tutte le nostre cellule, tutti i nostri tessuti, tutti i nostri organi, e la composizione di questo liquido, calcolato che noi siamo fatti per il 70% di acqua. Professore, quindi viviamo grazie ai reni. Noi siamo abituati a pensare al cuore come al motore della vita, però se non ci fossero i reni... Siamo diventati uomini grazie ai reni, perché noi saremmo ancora pesci. Nello... Vero? Lei mi ha raccontato questa, che mi è piaciuta molto. Sì, noi siamo riusciti ad abitare la terra, che era ostile per quello che eravamo noi, che eravamo pesci. Quello per far diventare pesci uomini. Il primo problema era quello di conservare il sodio ed eliminare il potassio. Conservare il sodio per i pesci che stanno nell'acqua salata del mare non era un problema, sodio dentro, sodio fuori. Ma quando si doveva incominciare ad abitare la terra e fuori il sodio non c'era più, allora il problema fondamentale era quello di conservare quello che noi introduciamo con gli alimenti. E questo ha fatto in modo che si sviluppasse un rene primitivo negli anfibi, che poi è diventato un rene sempre più sofisticato, per arrivare al rene delle scimmie, che è uguale al nostro. Professore, però sappiamo che i reni hanno il vizio o la virtù, a seconda di come si consideri il problema, di non dare segni di disagio e di fatica. Ma c'è chi non deve assolutamente farsi prendere in castagna, anzi deve tenere alta la guardia. Sì, quelli che fanno il nefrologo, dice qualcuno, sono più abituati. I nefrologi sono quei dottori che si occupano del rene, passano più tempo al computer o a guardare gli esami di laboratorio che non a guardare l'ammalato, e questo da qualcuno è considerato un vizio, invece è una virtù, perché noi non abbiamo segni per quanto riguarda l'organo di cui ci occupiamo. Il cuore batte, i polmoni respirano, è più facile. Il rene è silenzioso, fa tutto questo lavoro senza che nessuno sappia nemmeno che c'è, però noi abbiamo l'urina. E noi attraverso l'urina possiamo imparare tantissime cose, non solo per quanto riguarda la funzione del nostro rene, se ci sono malattie, se va tutto bene, se è normale, ma addirittura l'urina ci dà delle idee su quello che succede al cuore, su quello che succede al fegato, su quello che succede a qualunque altro organo. Quindi in un certo senso i dottori del rene sono un po' meno fortunati, perché il rene non dà segno di sé, ma hanno la possibilità di essere addirittura più precisi degli altri semplicemente guardando l'urina. Noi possiamo sapere se un uomo è diabetico guardando l'urina. Una volta addirittura c'era chi l'assaggiava l'urina per vedere se era dolce, quello era il segno del diabete, perché quando lo zucchero è troppo alto nel sangue va a finire nell'urina. Allora, professor Remuzzi, invitiamo i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi. Un appello particolare lo faremo agli ipertesi e ai diabetici, perché sono dei gruppi di persone più a rischio di trovarsi con un problema renale. È vero, professor Remuzzi? Diamo sì, certo. Un po' la precedenza a loro. La guardia deve essere alzata, come abbiamo detto prima, per chi ha qualche storia nella sua famiglia di malattie renali, per chi ha la pressione alta, perché la pressione alta quasi sempre dipende dal rene, e quando non dipendesse dal rene comunque danneggia il rene, e per chi ha il diabete, perché il diabete in una percentuale importante di ammalati, presto o tardi, come attacca il cuore e gli organi, attacca anche il rene. Ma lì c'è un problema. Se una persona che ha il diabete riesce a proteggere il proprio rene, e oggi abbiamo la possibilità di farlo, non avrà una progressione della sua malattia e non avrà dei guai diversi da quelli di una persona della sua stessa età. Ma una persona col diabete e una malattia renale, allora i rischi sono grandi anche di morire. Arrivano già numerosi messaggi, alcuni che si concentrano sul colore dell'urina, altri sulla frequenza ad andare ad urinare. Arrivano anche messaggi più tecnici. Buongiorno, io ho un rene solo, ipertrofico, l'altro è appena accennato. Oltre ad un esame del sangue e dell'urina all'anno, cosa devo fare? Sono presenti anche delle cisti viste con l'ecografia. Così ci scrive Gabriele da Padova. Vogliamo già dare un'indicazione, ma comunque questo l'ho letto perché è un SMS tipo. Voi potete oggi approfittare del professor Remuzzi per fare un po' per farvi rispondere a tutte le vostre domande. Noi un piccolo sommario della puntata ce l'abbiamo, però, professor Remuzzi, perché vogliamo parlare del rene come organo bersaglio, vogliamo parlare di tutti i sintomi, vogliamo parlare di insufficienza renale cronica, ma soprattutto anche di dialisi e di trapianti. Ma tutte le domande risponderemo, certo, a Gabriele, certo. Da Padova. Certo, che avere un rene solo in linea di massima non è un problema. Ci sono delle persone che nascono con un rene solo, oppure che nascono avendo uno dei due reni piccolo, malformato, non funzionante. In questo caso l'altro vicaria la funzione di quello che manca o di quello che è piccolo e poco funzionante. Siamo fatti così. Il rene che rimane diventa un pochino più grande e uno può vivere tutta la vita con un rene normale. Se c'è qualche cisti non è un problema. Le cisti sono un problema quando sono tante, perché configurano una determinata malattia. Noi che si possa vivere bene con un rene solo lo sappiamo, perché abbiamo seguito da tantissimi alcuni anni le persone che hanno donato un rene. Per esempio la mamma che dona un rene a suo figlio, sappiamo poi che vive per moltissimi anni una vita perfettamente normale. Qualcuno di questi ammalati si alza la pressione dopo moltissimi anni. Ecco, oltre a quello che Gabriele sta già facendo, è importante misurare la pressione per chi ha un rene solo. 800 24 0024, parleremo di questa bella coppia insieme al professor Remuzzi. I messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E nell'attesa delle vostre telefonate vi segnalo che fino a sabato 13 marzo si celebra la settimana mondiale contro il glaucoma. Ci siamo occupati più volte di questa patologia e secondo me abbiamo fatto bene, perché è la prima causa di cecità assoluta ed irreversibile nel mondo e interessa più del 2% della popolazione di età superiore ai 40 anni. Oggi si può curare, ma bisogna diagnosticarla in tempo. Ne parliamo col professor Roberto Carassa, che è direttore del Centro Italiano Glaucoma di Milano e presidente della neonata, direi, Associazione Italiana Prevenzione Glaucoma Onlus. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, il glaucoma, un po' come fanno i reni, non dà segni di sé, tanto che soprannominato il ladro silenzioso della vista. Per questo è importante fare dei controlli. Assolutamente. Purtroppo la gravità del glaucoma e la grossa problematica della cecità che questa malattia oggi provoca, relativa al fatto che non viene fatto diagnosi, la diagnosi viene fatta troppo tardiva. Oggi con una diagnosi precoce si riescono tranquillamente con le terapie a prevenire i danni più gravi e sicuramente la disfunzione visiva. Professore, quando lei dice una diagnosi precoce, che cosa andate a cercare per il glaucoma? Beh, i pazienti, ci sono dei fattori di rischio che oggi sono ben codificati, che selezionano i pazienti che nell'arco della propria vita possono andare incontro a questa problematica, e fra i vari fattori di rischio sicuramente il principale sono i pazienti in cui avviene un incremento, un rialzo della pressione dell'occhio. Poi sono i pazienti che hanno dei familiari già affetti da questa malattia, che risultano essere più a rischio, e purtroppo, una cosa abbastanza poco specifica, tutte le persone oltre una certa età. L'incremento dell'età aumenta il rischio relativo di glaucoma, per cui tutte le persone sopra i 50 anni dovrebbero comunque fare un controllo, molto di più le persone che hanno dei pazienti già affetti da questa malattia. E quello che bisogna farsi misurare è appunto la pressione oculare. Questa è un po' la cartina tornasole del... Certamente, allora la pressione intraoculare, cioè la pressione della palla dell'occhio, è il fattore di rischio principale. Al crescere della pressione intraoculare aumenta il rischio relativo di sviluppare la malattia glaucomatosa, per cui quando si fa una visita oculistica, e purtroppo è solo una visita oculistica in grado di determinare se è presente la malattia o se c'è il rischio per la malattia, viene misurata in modo totalmente indolore con una piccola macchinetta la pressione dell'occhio, e viene visualizzato il nervo ottico, che appunto quella struttura che porta la vista dall'occhio al cervello e che subisce i danni per colpa della pressione. Allora, io vi ricordo l'opportunità che mette a disposizione l'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, il sito potete andare sul sito della IAPB o chiamare il numero verde 800 06 8506, potete approfittare anche dell'Associazione Italiana Prevenzione Glaucoma, e soprattutto ricordatevi, fate i controlli, specie dopo i 40 anni. Professore, conferma? Assolutamente, bisogna fare almeno una visita oculistica per essere sicuri di non avere il problema, di non essere a rischio del problema nel futuro. Grazie professore, buona giornata. Grazie mille, arrivederci. Pronto soccorso. Lavorano, non si lamentano mai, o almeno lo fanno quando proprio la situazione è seria. Torniamo a parlare dei nostri reni insieme al professor Remuzzi. Professore, abbiamo detto che ipertesi, diabetici sono più a rischio, ci ha spiegato in parte perché i reni diventano un organo bersaglio. Ma io sono un po' preoccupata quando parliamo di ipertesi, perché secondo i dati sono circa 15 milioni in Italia le persone che hanno a che fare con una pressione alta. E allora bisogna fare dei distinguo, oppure un'indicazione che possiamo dare a tutti gli ipertesi? La pressione alta è causa di tante malattie, è causa di malattie del cuore, è causa di infarto, è causa di ictus del cervello e danneggia sempre il rene. Perché il rene deve lavorare a una determinata pressione, quando noi lo facciamo lavorare a una pressione più alta, lui ce la fa, poverino, ma a costo di danneggiare la parete di quei capillari che sono il segreto per la filtrazione dell'urina. Noi abbiamo dei piccoli gomitoli, i libri dicono che ne abbiamo 1 milione per ogni rene, qualcuno però ne ha 200.000, qualcuno ne ha 1.600.000 e sì, allora è ben diverso. Questi piccoli capillari che sono raccolti in gomitoli, 1 milione di gomitoli per ciascun rene, devono lavorare a un certo regime di pressione. Se aumenta la pressione si danneggiano e allora giorno dopo giorno il rene ne soffre. Quindi se la persona è ipertesa, anche in trattamento, deve sempre valutare, controllare, fare gli esami del sangue, fare gli esami dell'urina per vedere che tutti i valori vadano, siano dipende a posto? Dipende dalla gravità dell'ipertensione. Una pressione in trattamento che sia perfettamente controllata dal trattamento è una condizione che non implica necessariamente altri esami. È utile che un iperteso una volta ogni qualche anno dia uno sguardo all'esame delle urine per essere sicuro che non ci siano problemi e una volta ogni tanto faccia un esame della funzione del rene, si chiama ureazotemia, oppure misurare la creatinina nel sangue. Questo serve per essere certi che la funzione renale sia normale, anche perché l'ipertensione non è necessariamente solo la causa della malattia renale, può essere anche la spia di una malattia renale. Quindi quando aumenta la pressione, tutte le malattie renali sono associate all'aumento della pressione. Quindi almeno per la prima volta, quando aumenta la pressione, bisogna essere certi che il rene funzioni bene. Professore, ma chi non è iperteso, non è diabetico, non ha casi in famiglia, è salvo o ci sono anche abitudini, stili di vita che possono metterci nei guai, segnali magari sospetti da non trascurare? Che cosa piace, che cosa non piace al nostro rene, che cosa lo mette in difficoltà? Si offre volontario, metto tra virgolette, a rispondere a queste domande Max Pisu, che proprio stasera in occasione della giornata mondiale del rene sarà a Mantova con uno spettacolo insieme ad Edoardo De Crescenzo, che si intitola La mia vita in te. Buongiorno. Ma buongiorno a voi, non sono iperteso al momento. Non è iperteso, magari un po' c'è un po' di agitazione però a salire sul palco, nonostante lei ormai salti da un palco all'altro. No, ma è quella tensione giusta che ci vuole per affrontare il pubblico, insomma, per dare il meglio, ecco. Però non è ipertensione, no. Allora, Max, l'appuntamento è per questa sera a Mantova alle 21, giusto? Sì, esatto. È questo spettacolo, La mia vita in te, è organizzato dall'AIDO, che è l'associazione donatori, però di organi da persona vivente, con Gianni Dall'Aglio, che è il leader dei Ribelli, questo gruppo che suonava storico di Celentano. E Gianni Dall'Aglio ha donato appunto alla moglie Rietta un rene tempo fa, e stanno benissimo tutti e due, quindi da questo è il secondo anno che si ha da fare per organizzare questo spettacolo al teatro di Mantova, al teatro sociale. Stasera ci sarò io con Edoardo De Crescenzo e Ribelli e un sacco di artisti, musicisti che hanno aderito. Senti, allora, stasera alle 21, ma adesso hai l'appuntamento con il nostro Rene Quiz. Sei pronto? Devo mettere le cuffie, no? No, per funzionare bene i reni hanno bisogno di tanta acqua, vero o falso? Poi il professor Remuzzi ti bacchetta, vediamo se hai studiato. Professore, posso fare una domanda, una cosa scelta? No, sì. Va bene, allora ci vuole tanta acqua, ok, e qua ci siamo. Professor Remuzzi... Sì, non è necessariamente che ci sono delle condizioni in cui è importante avere tanto, ma il rene, come abbiamo detto prima, si regola perfettamente sia in condizioni di eccesso di liquidi che in condizioni di restrizione di liquidi. Un rene normale non ha necessariamente questo problema. Te la do per metà. Allora, quali di questi disturbi collegheresti ai reni? Un indolenzimento nella parte bassa della schiena, il desiderio impellente di fare pipì più volte al giorno, magari associato a bruciore, stanchezza, mal di testa? Direi indolenzimento della parte bassa della schiena. Professor Remuzzi? Quasi mai, di solito l'indolenzimento nella parte bassa della schiena dipende dalla colonna vertebrale o dai muscoli cosiddetti paralombari. Ci sono dei casi in cui l'indolenzimento nella parte bassa della schiena è indice di una malattia renale, e quella è quando c'è la tendenza a formare dei calcoli o quando c'è un calcolo, ma allora più che indolenzimento è davvero un dolore. Secondo te, Max, i reni, se fossero persone, sarebbero vegetariani o carnivori? Vegetariani. Professore Muzzi? Giusto. Bravo. Oh, meno male. Senti, secondo te, Max, c'è un'attività fisica che li può mettere in difficoltà? Non so, correre, fare pesi in palestra, andare in bici? Credo fare pesi. Professor Remuzzi, No, un rene normale è fatto per non avere problemi con qualunque tipo di attività fisica. Un rene ammalato, il problema è tutto diverso, dipende da che malattia e da quali sono i problemi. Senti, però lo promuoviamo a metà, no? Diciamo che poi fa questo spettacolo bellissimo, professor Remuzzi. Sì, quella poi è una cosa meravigliosa, perché del trapianto da vivente, tra persone vive, noi abbiamo tantissimo bisogno. Abbiamo quasi 50.000 persone che sono in dialisi, solo uno su cinque di quelli che avrebbero bisogno può arrivare a un trapianto. E non riusciremmo a togliere dalla dialisi tutti quelli che possono uscire dalla dialisi. La vita con la dialisi è una vita davvero infelice, nemmeno se fossimo ancora più bravi di come già siamo con il trapianto di rene da cadavere. Quindi la possibilità di dare un rene a un figlio, a una moglie, tra l'altro il caso del marito che dà il rene alla moglie è molto bello ed è anche un pochino raro. La maggior parte dei casi noi vediamo la moglie che dà il rene al marito o la mamma che dà il rene al figlio. Max, intanto grazie, perché con questo spettacolo porti un messaggio molto importante. Anche noi parleremo naturalmente di trapianto oggi e quindi io spero di averti qua, però te la sei cavata benissimo, eh? Dopo mi darete per la risposta a quelle giuste, sono curioso a questo punto. Va bene, il professore Muzzi te le ha date le risposte, ma poi tu, i tuoi reni stanno benissimo, non sei neanche iperteso, continua a seguirci e intanto noi ti seguiremo. Grazie Max per essere stato con noi. Buona giornata. Eccoci, siamo tornati. Professor Remuzzi, sulla seconda domanda, quella che abbiamo fatto a Max Pisu, sì, allora, quale disturbi collegheresti ai reni? Allora, abbiamo detto l'indolenzimento nella parte bassa non è quello, no, ma c'erano anche il desiderio impellente di fare pipì. Quello no, generalmente è un problema di vescica o di prostata. Invece la stanchezza sì e il mal di testa sì. Il mal di testa perché esprime l'aumento della pressione la maggior parte delle volte, e la stanchezza perché il rene, tra le tantissime cose che fa, regola anche i livelli di globuli rossi nel sangue, perché il rene produce una sostanza che si chiama eritropoietina. Noi la conosciamo perché la prendono quelli che vanno in bicicletta per aumentare, è considerata una droga, perché questa è una sostanza che produce il rene, ma la produce anche l'industria farmaceutica. Serve in generale ai dializzati per aumentare il numero dei globuli rossi, perché il rene fabbrica proprio questo ormone eritropoietina capace di aumentare i globuli rossi. Quando il rene funziona meno, questo ormone non viene prodotto e quindi uno è un pochino anemico e può essere stanco. E in questo caso quindi stanchezza e mal di testa vanno considerate, noi le abbiamo messi tra le risposte, e è facile cadere nel tranello perché non si collega la stanchezza ai reni se uno non fa il nefrologo o il medico. Nel mal di testa sono così lontani e invece certo, abbiamo visto che questi sono dei sintomi che valgono molto di più di quelli rispetto all'indolenzimento, che uno dice o male ai reni. Sì, l'indolenzimento ce l'hanno quasi tutti e quasi sempre mal di schiena, insomma. Allora, intanto abbiamo Paolo dalla provincia di Lucca. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Allora, io chiamavo perché avrei una domanda. Bevo un tipo di acqua olivo minerale, bicarbonato calcica. Volevo sapere se a lungo andare poteva creare dei problemi. Professore Muzzi. Ma il problema delle acque, in generale se uno ha una funzione renale normale, l'acqua è tutto uguale, quindi dire che c'è un'acqua che fa bene al rene non è vero. L'unica cosa, ci sono delle persone che hanno per esempio calcolosi di calcio o salato, allora è meglio che se devono proprio prendere l'acqua minerale, ma va bene l'acqua del rubinetto, devono prendere, o sarebbe preferibile che prendessero, acque cosiddette oligominerali, non gassate, non alcaline, e con un contenuto di calcio che sia inferiore ai 30 mg per litro. E questa è l'unica. Basta leggere l'etichetta. Precauzione, basta leggere l'etichetta. Però diciamo che una persona che ha dei reni normali non deve pensare di proteggerli con una certa acqua piuttosto che con un'altra, questo non è vero. Allora, nelle urine mi trovano sempre il glucosio, ci scrive Giuseppe. Tutte le analisi del diabete compreso la curva sono negative. Sono diabetico? Ci fa la domanda. Alcuni specialisti dicono di no. Datemi qualche consiglio. Emoglobina glicosilata è meglio della glicemia per sapere quanto è stato alto lo zucchero nel sangue nei mesi precedenti. però ci sono delle malattie del tubulo renale per cui c'è una perdita di glucosio che non si associa a un aumento della glicemia, quindi non sempre tutti quelli, sono forme molto rare, però non sempre tutti quelli che hanno glucosio nelle urine sono diabetici. La diagnosi di diabete nelle forme molto iniziali non è facilissima e quindi il consiglio è emoglobina glicosilata, ma comunque un buon medico. Allora, abbiamo parlato di globuli rossi e di anemia, giustamente un ascoltatore ci scrive: ma quindi tanti globuli rossi vuol dire reni iperattivi? Ho l'ematocrito a 50. No, non necessariamente, vuol dire che i reni certamente funzionano bene. Ci sono delle malattie che si associano a un eccesso di produzione di globuli rossi e 50 è certamente un livello di ematocrito che necessita una consulenza di uno specialista, non tanto di uno specialista di reni, ma di un ematologo, di uno che si occupa di malattie del sangue, perché al di sopra dei 45 di ematocrito ci possono essere dei problemi ad avere un numero di globuli rossi così alto e quindi è assolutamente necessario che la persona che ci ha scritto consulti uno specialista delle malattie del sangue, un ematologo. Ecco, ho letto questo messaggio anche perché, professor Remuzzi, ci stiamo accorgendo, ma è già successo anche nelle altre puntate in cui lei è stato ospite, che parlando di reni si parla poi di salute in generale, perché poi tutto alla fine torna lì, certo, parte da lì. Certo. Pasquale invece ci chiama da Verona. Buongiorno Pasquale. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Allora, dicevo, mia figlia attualmente ha 16 anni. Aveva un anno quando l'hanno operata perché il condotto dalla vescica al rene era ostruito, no? Sì. Ecco, però questo rene ne ha sofferto e funziona anche adesso al 16-18%. Allora, la domanda che volevo fare, col tempo in che cosa potrebbe influire questo? Però già ho sentito prima che anche con un reno una persona può funzionare bene, però sì. Mi dicevo, questa parte che non funziona più, si può degradare, può succedere qualcosa? Lei ogni tanto, ogni due anni si fa un controllo? Un controllo. Ecco, lì la domanda. No, grazie, se è stata Pasquale. Operata bene non succederà niente, ogni tanto è utile fare un controllo e guardare le urine perché non ci sia infezione. A lungo termine l'altro rene potreggerà anche quello malato e farà la funzione di quello malato. Renato invece ci chiama da Bergamo. Buongiorno Renato. Buongiorno, io volevo chiedere al dottor Remuzzi, io sono portatore di 3 stent coronarici. E la mia glicemia è sempre sopra il minimo, cioè circa sui 130, ciò che invece l'emoglobina glicata, come diceva, sì, sono al limite due numeri sotto il massimo. Diciamo che io sono in cura da un cardiologo qui, se le dico il nome lei lo conosce senz'altro, primario Seriate. Quindi sì, perché il professore mano, dice di... Lei è in buone mani? L'importante è questo, ma venga la domanda, quindi a tutti questi valorini un po' così e così, professor Remuzzi. Beh, certo deve guardare anche alla presenza di albumina eventualmente nelle urine, ma è in ottime mani, non facciamo nomi, ma ho capito tutto e le mani sono davvero buone. Massimiliano dalla provincia di Vicenza, buongiorno, si affidi buongiorno. Lei alle nostre, buongiorno. Buongiorno, io telefonavo per quanto riguarda la moglie che ha 45 anni e ha riscontrato su un rene una cista irrorata da capillari sanguigni. Volevo sapere se è da tenere sotto controllo, se è da eventualmente da operare, o se no altrimenti ci sono delle cure da fare. Tenere presente che la moglie è anche ipertesa, quindi ha problemi di pressione alta. Grazie Massimiliano. La pressione alta non dipende dalla cisti. Le cisti semplici non sono da operare, sono da osservare. La cisti va vista comunque da un urologo, perché bisogna essere certi che sia una cisti semplice, non sia complicata. Svuotare queste cisti non serve, anzi fa peggio, perché normalmente quando le si svuotano poi si infettano. Massimiliano, stia fermo lì. Allora, intanto noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Subito dopo riprendiamo e parleremo di dialisi. Professor Remuzzi, ci sono delle novità? Beh, sempre ci sono delle novità nella medicina e anche nella dialisi. Professor Remuzzi, dialisi, quando il rene non ce la fa più, per fortuna, no? Verrebbe da dire, c'è qualcosa, certo, che lo aiuta a c'è qualcosa che sostituisce un po' il rene, ed è la dialisi, certo, descritta così. So già che lei mi farà degli appunti, ma insomma è questo un po', vabbè, l'obiettivo della dialisi. È un sistema per svolgere le funzioni del rene. È interessante che il rene è sostanzialmente l'unico organo che l'uomo è stato capace in qualche modo di cui l'uomo è stato capace in qualche modo di sostituire la funzione. Quello che però bisogna pensare è che la dialisi sostituisce alcune delle funzioni del rene, ma non sostituisce tutte. Per esempio, non sostituisce la funzione di fare certi ormoni, l'eritropoietina, e allora la somministriamo. Non sostituisce la capacità del rene di regolare il metabolismo della vitamina D, perché anche la funzione delle ossa, se noi stiamo in piedi, abbiamo delle ossa che funzionano bene, facciamo sport, certo, sostanzialmente dipende dal rene. Ed ecco perché chi è in dialisi ha malattie delle ossa. Sappiamo come rimediare la vitamina D, la somministriamo, somministriamo il calcio, però certo la dialisi consente a delle persone di vivere, e anche per tanti anni, nonostante siano persone che di fatto vivono comunque con un livello di insufficienza renale importante, perché la dialisi non può fare tutto il lavoro che fa il rene. La dialisi si fa adesso tra le 4 e le 5 ore al giorno per 3 volte alla settimana, per tutte le settimane del mese e per tutti i mesi dell'anno. È in attesa di un trapianto. In attesa di un trapianto, però certo non sostituisce tutte le funzioni del rene. E pensate che quando abbiamo incominciato la dialisi si faceva per 12 ore, un giorno sì, un giorno no. Adesso si è arrivati a 4 ore, ridurre ancora di più. Io immagino che sarà difficile, perché il rene fa questo lavoro 24 ore al giorno, giorno e notte, e noi, quindi immaginate 24 ore per 7 giorni alla settimana, e noi sostituiamo questo 4 ore, un giorno sì, un giorno no, in una settimana, quindi concentriamo, sì, tantissimo. Una cosa che è stata fatta ultimamente, che facciamo noi per esempio, che fanno non moltissimi altri in Italia, ma pian pianino sempre di più, è quello di fare la dialisi di notte. Allora uno arriva in ospedale, viene attaccato a questa macchina di dialisi, comincia a guardare la televisione. È una dialisi molto più dolce, perché dura tutta la notte, e funziona molto meglio, perché naturalmente consentiamo, ci avviciniamo sempre di più a quella che è la funzione normale del rene, che è di funzionare davvero minuto per minuto, e non tutto insieme in 4 ore. Quindi questa dialisi può durare anche 10 ore. Se uno dorme, arriva, si attacca alla macchina, vede un po' una televisione, un'infermiera gli porta il caffè e gli fa un po' di compagnia, lui si addormenta e si sveglia al mattino e ritorna. Pronto a lavorare. Certo, deve venire in ospedale un giorno sì, un giorno no. Se uno ha la moglie brontolona, devo dire che viene anche volentieri. Anche il marito, eh. Beh, se è uno, sì, che ha un marito, certo, che russa. Alessandro, dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti? Sì, niente, io lo sapevo dal professore. Io ho un rene solo dovuto a un intervento effettuato nel 97. Per cui niente, lo stile di vita da tenere, precauzioni da tenere, no? Un po' di informazioni in merito a questo problema. Istruzioni per un buon mantenimento, allora. In realtà non ci sono delle istruzioni particolari. Uno che ha un rene solo deve fare quello che dovrebbe fare chiunque di noi. Per esempio, le cose fondamentali sono muoversi, perché l'attività fisica fa bene all'organismo e fa bene anche al rene. Non fumare, perché il fumo fa male al rene. Non mangiare troppo sale, quindi non aggiungere il sale agli alimenti, e non prendere cibi conservati. Questo fa male anche a quelli che hanno due reni, a maggior ragione a quelli che hanno un rene solo, ed evitare troppe proteine. Quindi la carne rossa in generale non fa bene a nessuno, nemmeno a quelli che hanno due reni. Ma Alessandro però vive nella provincia di Firenze, la Chianina. Sì, sì. Alessandro, quante volte mangia la carne in una settimana? Senta, io ne ho mangiato tantissime in età, diciamo, giovane, diciamo, fino a 52 anni, per cui posso dire così. Era bambino. Però adesso non preferisco non mangiare, che non mi piace. Ah, va bene. Queste cose già questa buona condotta già la tengo, per cui diciamo. Alessandro, lei si sta comportando benissimo. Non lo possiamo aiutare. Cosa sta già facendo tutto da solo, eh? Bravo Alessandro, buona giornata. Grazie, buongiorno. Professor Remuzzi, io vorrei andare sul discorso trapianti. Abbiamo sentito Max Pisu, che proprio stasera farà questo spettacolo per ricordare una donazione da vivente a vivente, un marito che dona il rene alla moglie. Ci sono tante persone in dialisi che sono in attesa di un rene, e tante volte, no, la situazione si infila come in un imbuto troppo stretto. Beh, noi abbiamo ormai quasi 10.000 persone che potrebbero avere una vita normale con un trapianto in Italia, e facciamo in Italia 1.500 trapianti di rene circa. Nel 2009 sono stati 1.645. E quindi vedete che in realtà uno su cinque di quelli che potrebbero avere un trapianto di rene e tornare a un trapianto di rene con una vita normale, libera della dialisi, in realtà riesce ad arrivarci. Quello che succede in altri paesi, e in particolare negli Stati Uniti, è che quando si fa un certo numero di trapianti, il 50% di quel numero lì è di trapianti da vivente. Quindi uno fa, mettiamo, 3.000 trapianti di rene da cadavere e 3.000 da vivente. Noi invece facciamo il 6% anziché il 50% dei trapianti da vivente, ne facciamo pochissimi. E questo è un problema. Io penso che noi dobbiamo incoraggiare chi ha un parente in dialisi che può avvantaggiarsi di un trapianto da vivente a donare un rene, perché noi sappiamo che il rene, un rene solo consente di fare una vita perfettamente normale. Appena terminato uno studio bellissimo fatto negli Stati Uniti, pubblicato nel New England Journal of Medicine, che fa vedere che il donatore di rene non rischia nulla. L'intervento chirurgico ormai è un intervento semplice, e dall'altra parte c'è tantissimo. Una svolta. Questa è una donazione vera. Noi chiamiamo donazione quella del cadavere. In realtà quella lì non è una donazione, perché per donare bisogna avere la volontà. Il cadavere la volontà non ce l'ha. Io personalmente penso che i reni noi li dovremmo lasciare, come anche il cuore, il fegato, il pancreas dopo la morte, perché a noi non servono più, si deteriorano nel giro di pochissimo tempo o addirittura vengono bruciati, e invece cambiano la vita delle persone, e tanti sono bambini. Quindi quello di lasciare i reni non è una donazione, dovrebbe essere addirittura un dovere civico, secondo me, come è un dovere civico vaccinare i bambini, assistere gli anziani e tante altre cose. Invece la vera donazione è quella di qualcuno che per un coniuge, per la moglie, per il marito. Ci devono essere sempre gradi di parentela, professore Muzzi, oppure io scelgo, dico, dono un rene a chi ne ha bisogno, chi è compatibile col mio rene, un po' come si dona il sangue. Ecco, noi abbiamo una legge che dice la donazione è consentita in deroga al fatto che uno non può disporre. La nostra legge sulla donazione di vivente è molto antica, è una legge degli anni 60, e dice che in deroga al fatto che la nostra Costituzione dice che uno non può disporre di parti del proprio corpo se questo può rappresentare per lui un danno, in deroga a questo si possono donare i reni. Lo si deve fare tra congiunti, tra familiari, lo si può fare tra marito e moglie, ma qualora non ci fosse un donatore congiunto compatibile, allora si può donare il rene persino a una persona che non si conosce. E quindi la nostra legge non esclude che si possa fare questo. Adesso ci sono tre persone, due a Milano e uno a Torino, che hanno, l'abbiamo letto tutti sui giornali, detto: io voglio fare un atto di generosità e dare un rene a uno che non conosco. Naturalmente bisogna essere sicuri che questo sia davvero un atto di generosità, che uno sia sano di fisico e di mente per fare questa cosa qua, ma la legge non lo impedisce, la legge che abbiamo noi, e quindi si potrebbe benissimo fare. Allora, Stefano da Frosinone, abbiamo proprio un minuto. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Guardi che io ho già il cartellino giallo, Sì, veloce. Sono veloce. Innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione, che è molto esaustiva. E poi volevo chiedere al professore, io sono figlio di un trapiantato, mio padre è stato trapiantato da 6 mesi e ha avuto un doppio trapianto. E hanno messo impiantato 2 reni. Sì. Perché è di età un po' più avanzata, ha 68 anni, e volevo sapere se questa è una nuova strada, anche quella del doppio trapianto. Abbiamo proprio dedicato una puntata intera insieme al professor Remuzzi, si ricorda del doppio trapianto, che c'è ancora nell'archivio. Professor Remuzzi, rapidamente, a Stefano, 2 reni invece che uno. Sì, 2 reni invece che uno è una strada che in Italia abbiamo aperto noi. È la prima, il primo studio controllato è stato fatto da un gruppo coordinato dai nefrologi di Bergamo in tutto il mondo. Funziona bene, 2 reni, purché si faccia come è stato descritto in quei lavori che hanno iniziato questo tipo di attività in tutta Italia. Bisogna prima fare la biopsia e giudicare la qualità del rene guardandolo al microscopio, perché reni di persone anziane, abbiamo pensato, non buttiamoli via, guardiamo come sono, possono essere perfetti, e allora ne usiamo uno solo. possono essere così così e allora ne usiamo due e fanno benissimo il lavoro di uno. Anche di persone, di donatori che hanno più di 70 anni. Abbiamo appena pubblicato con i medici e chirurghi di Padova questi dati su persone più di 70 anni che sono donatori, i loro reni vanno benissimo, ma può essere che uno quando si guarda al microscopio abbia reni molto compromessi e allora in quel caso lì non si non utilizza. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi. Allora, giornata mondiale del rene, un'occasione per pensare di più a questo organo unico, nel senso è doppio ma è unico nel, proprio nel lavoro che svolge, quindi attenzione se siete ipertesi, controllatevi, poca carne, acqua, ne potete bere quanta ne volete, attività fisica regolare, niente fumo, professor Remuzzi, alcol moderato. Alcol pare che un pochino faccia bene, due bicchieri al giorno per gli uomini e uno per le donne. È giusto l'ora dell'aperitivo, io vi saluto, vi do appuntamento a domani dopo di il vino, GR delle 11. Due bicchieri di vino. Vino, no, assolutamente, due in un giorno. A domani, grazie al professor Remuzzi, buona giornata a voi.